questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Ed eccoci giunti all'appuntamento con RadioTube. Per questa settimana e per la prossima vi lasciamo in compagnia con un meglio di gli incontri che ci hanno più divertito, che ci hanno più appassionato in queste settimane della nostra trasmissione. Sempre con me, Marta Cagnola, sempre con Daniele Bellasio. Iniziamo con l'intervista a un amico autore di un libro bellissimo. Daniele, siamo qua. Dimmi, dici, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un momento di coming out. Coming out. Abbiamo fatto, cioè, come io mi vergogno out? Un po', perché questa settimana parliamo di amici un libro nostri. Che... No, beh. Dai, diciamolo! Di un libro, diciamo in modo serio, di un libro che hai scelto tu e di un e-libro che ho scelto io. Allora, perché l'hai scelto tu? Allora, io no, adesso partiamo dal mio. Io ecco. Lo dico subito, cari ascoltatori, io per i libri sono stata ringraziata in questo libro, ma non ho fatto nulla, non ho fatto nulla perché è un libro troppo serio. È un libro del quale io ho seguito la gestazione in 3 anni, è un libro in quanto bellissimo. Amica, più che in quanto amica. Collega. No, no, assolutamente, in quanto amica. Eppure ti hanno ringraziato. Eppure mi hanno ringraziato, ma per nessuna, però è una gioia. E soprattutto, dimenticatevi il fatto che stiamo parlando del libro di un mio amico, perché è un'opera pazzesca. Omnia. Cioè, quando me la sono trovata tra le mani ho detto, accidenti. Adesso infatti gli chiediamo quanto ci ha messo, esatto. Perché è la prima curiosità, allora, che ti invento per raccontare tutta la storia del paese attraverso bianca, rosa e nera, 100 anni di storia d'Italia nella cronaca popolare, edita da Le Monnier. Lo conoscete già perché è spesso ospite di RadioTube. Eddie Anselmi, ciao Eddie. Ciao Marta, ciao Daniele, all'ascoltatrice e agli ascoltatori di RadioTube. Ma come ti è venuto in mente? Cioè, si parte dal 1900, si sì. arriva ai giorni nostri, sì. ma la storia non è vista attraverso le guerre, i presidenti, le rivoluzioni, c'è tutto, ma è vista attraverso i casi di cronaca, l'omicidio, lo scandalo, ma non solo il gossip, nera. Non solo nera, anche rosa, e letta attraverso i grandi giornali popolari. Oh, i grandi giornali popolari. Un'idea pazzesca, bravo Eddie. Un internet ante litteram, quindi. Ma direi che bianca, rosa e nera sono i tre colori della cronaca. Bianca sono i matrimoni, i battesimi, le celebrazioni, rosa sono gli amori, il gossip, quello che oggi chiamiamo gossip, la nera sono i delitti, la cronaca giudiziaria, poi c'è anche altro, c'è la cronaca di guerra, ci sono, però tutto visto attraverso appunto quello che poi diventò il rotocalco, ma c'erano i settimanali illustrati inizialmente. Internet non ha ancora, secondo me, una narrazione così armonica, è ancora cacofonica, cioè ancora è un media sì, ma non è ancora una cassa di risonanza così grande come ancora la televisione, quindi o come sono ancora i settimanali illustrati che esistono, che compriamo tuttora anche quando facciamo un viaggio in treno, in aeroplano, o leggiamo dal parrucchiere o dal barbiere, bene, sì, ci sono anche dal dentista, lì la scorpacciata migliori dal dentista. Però una delle cose interessanti che tu fai subito notare anche proprio nell'introduzione è di come e questo secondo me sta accadendo anche in rete, ci sia una sorta di mondo parallelo raccontato per il pubblico e che ha più presa sul pubblico, che racconta la realtà in maniera più convincente e che la racconta meglio al pubblico, diciamolo così. E poi succede che i giornalisti che non si occupano di cronaca popolare o che non hanno confidenza, torniamo sul discorso di prima, si stupiscono quando poi succedono cose come le elezioni. Cioè, stai dicendo che sono più veri i settimanali popolari di molte cose che leggiamo sui quotidiani nazionali. Diciamo che Eddie dice che c'è una sintonia con gli umori del pubblico, è interessante, è questo, interessante. La sintonia con gli umori. Ma il fine è meramente commerciale, se io mi occupo di un personaggio e lo metto in copertina è perché suppongo che questo personaggio o questa storia faccia aumentare le copie vendute e la storia dei grandi rotocalchi è fatta di record segnati in occasione di eventi speciali. Parlo anche proprio del dopoguerra, le copie si decuplicavano e quando ci sono i funerali del Grande Torino o il matrimonio di quella che poi sarà la regina Elisabetta d'Inghilterra, si arriva a toccare del 250.000, del 500.000 e poi addirittura negli anni 60 e 70 il milione di copie si passerà. Che adesso è fantascienza il milione di copie. Tu che sei più pratico di me con i numeri. No, su internet. Su internet. I milioni si fanno su internet. L'altra caratteristica è che, inseguendo gli umori o il sentimento popolare, i giornalisti cercavano di ammanire una narrazione spesso conservatrice, e in realtà alcuni cambiamenti di costume, alcuni cambiamenti dell'attitudine del pubblico si vedono anche dalla reazione verso gli eventi di cui parlo, di cui faccio un esempio, non so, la famiglia Savoia, Savoia in esilio. Le prime narrazioni riflettono un paese ancora nostalgico, ancora disposto a guardare con favore l'esperienza della monarchia. Negli anni 60, viceversa, i tre principi protagonisti ancora delle cronache, Vittorio Emanuele e Maria Beatrice, verranno visti con un certo distacco. L'opzione repubblicana è totalmente metabolizzata, lo vediamo anche nei diversi accenti che i giornali, anche quelli amici di Casa Savoia, poterono riservare alle peripezie, appunto, di Titti di Savoia del 67 o di Vittorio Emanuele, che nonostante tutto erano guardate con un favore totale, insomma, non c'è un articolo denigratorio o un articolo. Si cercava sempre di parlarne bene, nonostante ciò. Un cambiamento evidente. Eddie, io vedo uno spartiacque di cui ho sempre sentito parlare nella storia della televisione, che è quella che io ho frequentato di più, che è quello della vicenda di cronaca di Vermicino. Lì c'è proprio si va verso la cronaca moderna, quella che non a caso adesso è anche quella che la noi vita troviamo. Indiretta. Lì nasce la vita in diretta. La vita in diretta che adesso passa per la TV e passa anche per la rete. Vermicino è importantissimo, purtroppo. C'è è importantissimo per una coincidenza, ovvero che Vermicino accade alle porte di Roma. Lo stesso fatto avvenuto alle porte di Milano o di Firenze non avrebbe suscitato quell'interesse. Le redazioni dei telegiornali volevano raccontare una storia di lieto fine. Ci fu anche una scommessa sbagliata. Non si sarebbe mosso il presidente Pertini, probabilmente, se l'esito fosse stato anche solamente a rischio. La storia, sì, erano tutti convinti che sarebbe finita bene, e quindi spostarono tutti i telegiornali, fecero questa enorme diretta. I settimanali, la parola scritta arrivò una settimana dopo, quindi è il primo evento che accade esclusivamente in TV, e poi tutto quello che viene scritto dopo è già in ritardo, perché ne sappiamo già la conclusione, e conoscendo già la conclusione non è una storia interessante, una storia tragica, ma è una storia tragica che appartiene a tutti, perché tutti l'avevamo seguita in televisione. Volevo solo farti questa domanda, questa osservazione che ti avevo fatto anche fuori onda, cioè il fatto che noi adesso diciamo la cronaca, la rete che stimola gli istinti. E invece, no, su questo tu hai un'opinione molto precisa. No, nel senso che noi adesso ce la prendiamo spesso con la rete, come direbbe Gabriel, la colpa è nostra. No, nel senso che siccome i giornali hanno perso nel corso degli anni una parte della loro credibilità, oltre che dei loro lettori, diciamo che è la rete che fomenta il racconto popolare più becero, spesso con bufale, sbagliate, tutto il resto. Io credo che invece il racconto sia sempre stato molto pasticciato, e questo a volte è anche il suo bello, nel senso che se tu lavori con l'attualità, commetti degli errori, prendi fischi per fiaschi, dovresti non farlo, imparare a correggerti, e quello che poi conta è quello che ha fatto Eddie nel libro, cioè il racconto complessivo popolare che ne esce. E infatti la curiosità che io volevo chiederti, Eddie, è alla fine il racconto popolare fatto attraverso questi giornali in Italia riesce meglio nella nera, nella bianca o nella rosa? Cioè è un paese più segnato dalla cronaca bianca, nera o rosa? Allora, secondo me le pietre miliari, adesso potrò essere bizzarra come conclusione, ma le pietre miliari sono i matrimoni reali. La presentazione dei matrimoni reali, io ho scelto la la casa di Windsor, la casa regnante d'Inghilterra, perché è l'unica che ha una continuità di racconto dagli anni 30. C'è la stessa regina, da 70 anni. Quindi parto dagli anni 30 con Edoardo VIII e Wallis Simpson, arrivo negli anni 40 con il matrimonio della principessa Elisabetta e con Enzo Biagi, a cui Angelo Rizzoli paga un aereo privato insieme a un fotografo e un altro reporter per andare a Londra e poter portare in diretta le fotografie e uscire il giorno dopo con i rullini senza doverli spedire, senza successo da insomma un altro record di vendita della rivista. Arriviamo poi dopo agli anni 80, all'inizio degli anni 80, quindi epoca riflusso, ma anche epoca di una sorta di banalizzazione dei reali. Quando si sposa una carlediana ci sono gli articoli sugli astrologi che prevedono la loro intesa intima, o i grafologi che dicono che andranno d'accordo. È un modo di raccontarlo completamente nuovo. Nessuno si sarebbe potuto permettere di fare un commento sull'intesa personale e familiare di coppia di Elisabetta e di Filippo d'Edimburgo. Viceversa, carlediana dall'inizio vengono guardati attraverso il buco della serratura. L'episodio della morte, del funerale di Diana e della, prima ancora della crisi coniugale degli stessi, e poi dopo alla fine il matrimonio del principe William, dove torniamo indietro. Si sa tutto, ma sembra tutto uscito dalle note in un ufficio stampa molto preciso. È verissimo, strano come sia ancora appassionante come siano ancora appassionanti queste vicende dei reali. Ma io vorrei. La cosa più bella è il principe norvegese. Il principe norvegese che sposa nel 2001 una ragazza, l'erede al trono, una ragazza madre, si disse, quindi adottando il figlio che aveva avuto fuori dal matrimonio. Non era mai successo nella storia delle case reali un episodio del genere. In Italia si parlava di una Cenerentola graziata dal fato, il racconto fu molto molto conservatore. Viceversa, il mondo parlò di stepchild adoption, parlò di un cambiamento proprio di paradigma nelle famiglie reali, lo salutò come un episodio positivo, proprio di normalizzazione dell'istituto monarchico, insomma al nord interessa quasi tutti i paesi. Bianca, rosa e nera, 100 anni di storia d'Italia nella cronaca popolare, Le Monnier di Eddie Anselmi. Grazie Eddie per essere stato con noi. E adesso direi che facciamo un po' di traffico. YouTube. He represents peace. He represents freedom. To Muhammad Ali, my message for him would be thank you. Thank you for fighting for what you believe in. You are the greatest. Hopefully there'll be more like you. We're trying very hard to live up to the man you were. It would be a thank you for the example that he set for so many people, for generations to come also. Just thank you. Grazie per aver lottato in quello in cui credevi, grazie per essere stato un esempio per le generazioni passate e anche per quelle future. Sei stato il più grande. Di chi stiamo parlando, Daniele? Beh, Cassius Clay. Mohamed Ali, il più grande di tutti. Allora, qualche sera fa io sono stata al Politecnico di Milano in mezzo a un sacco di ragazzi che hanno accolto un giornalista come se fosse una rockstar. Non mi era mai capitato. L'avrei fatto anch'io di accoglierlo così. Allora, c'era l'anteprima di questo viaggio, di questo documentario in 3 film. I titoli sono Louisville Day, Miami the Glory, Atlanta the Hero. Parliamo appunto di un eroe, del più grande. Chi racconta Muhammad Ali su Sky Sport? Chi racconta per antonomasia lo sport? Federico Buffa, che è con noi. Buonasera Federico. Buonasera, grazie per un'introduzione un po' eccessiva per quello che riguarda me, comunque grazie. No, Federico, noi siamo sempre sinceri. Allora, posso dire... anteprima al Politecnico Bovisa. Io arrivo travolta da centinaia di cioè zainetti e testosterone, perché tutti maschi, ingegneri, tutti, e sembrava che stesse arrivando non lo so, cioè Mick Jagger. Sì, una rockstar. Quando sei entrato, Federico, l'ovazione, lo posso dire io, l'ovazione, perché le tue storie hanno conquistato tutti. Federico, Muhammad Ali, com'è stato raccontare questa storia tra l'altro in quei luoghi? In quei luoghi. Posso raccontarti un episodio significativo che non ho mai raccontato ancora? Accidenti. Ovvero sia, mentre stavamo girando a Louisville, era una domenica pomeriggio, nel quartiere che era quello dove lui era cresciuto c'è stato il classico drive-by, cioè hanno sparato una macchina e hanno ucciso il conducente e l'hanno veramente crivellato di colpi. Naturalmente la produzione in quel caso si spaventa, anche perché di fianco a noi passa in bicicletta un nero che ci dice: ragazzi, per voi non è un gran bel posto questo. Però io sento che dobbiamo girarla lì la scena per forza, perché solo lì la possiamo girare, c'è un singolo luogo dove io vorrei girare la scena. E a questo punto la produzione ha dei dubbi, finché uno dei cameraman dice: io la giro. Io sono abbastanza abituato a queste cose negli Stati Uniti, fanno parte, ahimè, specialmente nei quartieri neri, della loro cultura, però non sempre qualcuno ha voglia di rischiare. E il cameraman me l'ha girata, esattamente, l'abbiamo potuta fare e io sono contento che sia rimasta dentro, perché volevo proprio far sentire la sensazione che si possa provare in quei luoghi dove è cresciuto lui, e spero ci sia in qualche modo riuscito. Cioè, sei andato a raccontare dalla nascita, dalle prime sfide, da quella bicicletta rubata che ha fatto sì poi che nascesse tutta la leggenda. Sì, perché la storia di Muhammad Ali è veramente un romanzo che sembra ispirato a una storia vera, ma in realtà è una storia vera. Ci sono decine di passaggi in cui la storia andrebbe in una direzione e poi questo misterioso sceneggiatore inventa un personaggio e va nella direzione in cui può andare realmente. La domanda è sempre quella: e se non gli avessero rubato la bicicletta quel giorno? Lui dice: probabilmente avrei parcheggiato le auto e quindi ci saremmo persi più grande di sempre. E se il giudice Harlan non avesse variato il suo verdetto dalla sera alla mattina, e questa è una storia che apparirà in una puntata successiva, e la Corte Suprema, l'ultimo grado di giurisdizione, non lo avesse assolto, noi ci saremmo persi tutti i match dal 1971 in poi. C'è sempre qualcuno che porta la storia dove deve restare, cioè veramente uno dei più bei romanzi mai scritti, ma non necessariamente su un atleta, su un uomo. Un mito che ha superato i confini del mondo dello sport, raccontato dalle parole di Federico Buffa. In tre puntate, un emozionante viaggio on the road attraverso 50 anni di storia americana che The Greatest ha contribuito a cambiare. Federico Buffa racconta Muhammad Ali. Primo episodio, Louisville Days. Sabato 10 alle 23.45 su Sky Sport 1. Io quando sono venuta l'altra sera a vedere l'anteprima del primo episodio ho postato una tua foto mentre raccontavi su Instagram. Dopo un secondo mi ha scritto mio nipote 16 anni con uno sguardo sognante e gli ho risposto: sapere che ti piaceva così tanto Federico Buffa ti portavo. Perché secondo te questi ragazzi hanno tanta voglia di sentire, raccontare queste storie che spesso sono molto lontane, perché sì, hanno voglia di storie di riscatto, perché hanno voglia di eroi positivi? Cioè, secondo te che cosa sentono? Se si fosse persa la componente romantica dello sport, che oggi sono tutti straordinariamente performanti, ma non sempre ti danno l'emozione di farti pensare che abbiano un'anima capace di certe cose. Che le storie del passato, anche se non mi va di fare il nostalgico, hanno proprio quella componente lì, forse perché oggi tutto quello che succede viene consumato in un attimo, mentre se vai indietro nel tempo consumi magari con più spazio a disposizione. Allora se hai più spazio a disposizione magari ti fermi a osservare un particolare. Oggi il particolare è solo l'immagine, perché l'immagine è dominante, ma siccome le immagini di allora non sono della qualità di quelle di adesso, allora devi fermarti anche magari ad ascoltare qualche cosa. È un'analisi fatta sul posto, non ha nessuna ragionevole certezza, però potrebbe essere una delle chiavi di lettura. Il tuo modo di raccontare è diventato un genere che in questo momento praticamente pratichi soltanto tu, perché è difficile trovare qualcuno che sappia o voglia farlo nello stesso modo. Da giornalista mi piacerebbe chiederti: tu pensi che in questa capacità di fare insieme informazione e un po', diciamo, teatro nel senso più letterario del termine, ci sia anche la possibilità di inventare un nuovo modo di fare il giornalismo nel futuro, cioè che sia una ricetta anche per uscire dalla crisi del giornalismo che c'è o che si respira? Bellissima domanda, al di sopra delle mie possibilità. Prima, perché io non credo che sia così unico quello che faccio io, secondo me lo fanno in tanti. Tutti quelli che parlano di sport in un certo modo credo che guardino a quelli che lo hanno fatto nel teatro civile. Per me il punto di riferimento è palesemente Paolini, non c'è nessuno secondo me in Italia che è in grado di raccontare storie di quella forza dal Vajonti in poi così bene e soprattutto così con quella forza, con quella voglia di coinvolgerti. Io nel mio piccolo provo nello sport a farlo, che ovviamente è un terreno che attira più facilmente un pubblico giovanile. Lo sport sembra fatto per il pubblico giovanile, non so se sia un modo nuovo di fare giornalismo, però sicuramente c'è una piccola opposizione alla dittatura del presente. La dittatura del presente vuol dire che quello che è successo oggi è successo oggi, quello che è successo ieri è storia e quello che è successo la settimana scorsa è preistoria. Secondo me non è così che converrebbe guardare a quello che succede, perché sennò allora non ci spiegheremmo perché a 50 anni di distanza ci sono tanti giocatori dell'NFL che quando risuona la domenica l'inno nazionale americano o stanno seduti o guardano altrove. Come? Sono passati 50 anni e fanno ancora le cose che vennero fatte negli anni 60. E evidentemente bisogna andare a vedere che cosa è successo allora. Mi piace parlare di Muhammad Ali come dell'unico afroamericano che si sia ribellato all'establishment e incredibilmente sia morto di morte naturale. È incredibile come lui abbia attraversato quegli anni dove palesemente era sotto il controllo FBI ed era uno degli uomini più vilipesi d'America ed è arrivato fino a morire per morte naturale. Però a 50 anni di distanza ci sono tanti atleti afroamericani che sono più o meno dove si trovava lui, anche se a circostanze diverse degli anni 60-70. Ho un'ultima domanda, Federico. Quando fanno le parodie di Federico Buffa, visto che ormai è un ecco, c'è qualcosa che ti arrabbi, ti diverti? No, io ho familiarità solamente con quella degli autogol. Degli autogol. Questo trio di adorabili canaglie di Pavia. Però siccome in varie occasioni li ho avuti in camerino, a teatro e in altre occasioni, ho fatto al ragazzo che mi imita direttamente i miei complimenti. Mi sono anche permesso di dire, certe volte sei meglio dell'originale, almeno per come mi sento io, perché è una parodia, imitazione arguta, intelligente, ovvero sia si mettono in bocca delle storie inverosimili, però prendendo proprio l'angolazione che potrei prendere io. La cosa più sorprendente è che un paio di volte qualcuno, magari che non risiede in Italia ma le sente soltanto sulla rete, mi ha detto: però bella quella del Giappone, non me l'aspettavo da te, guarda che non l'ho fatta io. Grandissimo, fantastico. Grandissimo. Federico Buffa, grazie. Straordinario. Allora, tra l'altro c'è anche il sito buffaracconta.sky.it. Grazie per essere stato con noi, Federico. Grazie, ciao. Grazie a voi, è stata un'intervista deliziosa. Grazie mille per avermi invitato. Grazie, a presto. E per chi vuole a teatro? E quindi? Facciamo una breve pausa, ci troviamo tra poco. Facciamo però un passo indietro e vediamo come nasce quella che, a detta di tutti, è la nazionale più forte di tutti i tempi. Il grande Giappone di Oliver Hutton, Benji Price e Mark Landers. Federico Buffa racconta storie mondiali. Il grande Giappone di Olli e Benji. Guardiamo al futuro, verso un futuro migliore per tutti. Perché noi, in Bristol Myers Squibb, ci impegniamo a scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci che aiutino pazienti affetti da gravi malattie. Una passione vera che guida il nostro lavoro e ci spinge a perseguire importanti risultati. I nostri successi si misurano grazie alla differenza che facciamo nella vita dei pazienti. È questo il nostro riconoscimento più grande. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reforma. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reforma. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti, perché il gruppo Credit Reforma è la prima società di recupero crediti del mondo con 550 milioni di euro di fatturato. Un consiglio, verifica la solvibilità del debitore prima di intentare l'azione legale. 800-425-325 o creditreforma.it. YouTube. Lui chi è? È un altro uomo che è impazzito per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo